Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sento sempre più spesso persone che criticano l'operato dell'attuale governo, colpevole di non aver ancora mantenuto le promesse elettorali e soprattutto di non aver abbassato le tasse. Ma ad un governo, di qualsiasi colore esso sia, non spetterebbero 5 anni per poter adempiere alle proprie premesse? E soprattutto, possibile che nessuno si renda conto che le tasse non possono diminuire se contestualmente non diminuiscono le spese? Ma perché l'italiano medio reclama sempre e comunque, ma non fa mai nulla per cambiare, anzi spesso protegge chi è in difetto? Qualche esempio. Alitalia perde ogni giorno 2,3 milioni di euro, dei nostri euro. Dovremmo essere indignati ed arrabbiati. Dovremmo scendere in piazza per obbligare il governo a non finanziare più questa azienda. Ed invece facciamo spallucce. Ci sono 5 regioni a statuto speciale, dove i residenti versano allo Stato molto meno di quanto invece da esso direttamente o indirettamente percepiscono. Tutti sappiamo che non esistono più i presupposti per mantenere le regioni a statuto speciale, eppure si mantengono. Risultato? La nostra reazione è un'alzata di braccia. Il comune di Roma è in difficoltà, lo Stato finanzia. Tutto normale. Il comune di Catania, comune tra l'altro di una regione a statuto speciale, è stato portato con operazioni screanzate sull'orlo del fallimento e per riparare lo Stato stanzia a fondo perduto 120 milioni di euro. Anche qui tutto normale. Gran parte dell'immondizia campana viene smaltita da altre regioni italiane e dalla Germania. Ma ciò non avviene gratis. Lo Stato, cioè noi, paga fior di quattrini. In compenso, i maggiori responsabili di ciò, come l'onorevole Bassolino ed il sindaco Iervolino, sorridono sempre di più e rimangono saldamente al loro posto. Complimenti! La provincia di Catanzaro da sola annovera il 14% degli invalidi italiani. Un termine di paragone, la Lombardia ne ha il 2%. Non c'è da pensare. La regione Sicilia ha 22.000 dipendenti. Basti pensare che la Lombardia ne ha circa 3.000, così come Piemonte e Veneto. Non c'è da pensare? Sempre in Sicilia ci sono 30.000 forestali, laddove la foresta purtroppo non c'è più, perché nel frattempo è bruciata. In Lombardia di forestali ne abbiamo 5.000 ed abbiamo le Alpi prevalentemente coperte da boschi. Potrei continuare nell'elenco, ma penso di aver già reso l'idea, così come penso che molte persone, dopo aver letto queste righe, mi abbiano già affibbiato il termine di razzista, fascista e perché no anche nazista. Nessuno però sarà in grado di negare quanto sopra asserito, perché è semplice e pura verità. Ci sono montagne di soldi sprecati che si potrebbero risparmiare, con risparmio diminuire le tasse. Non possiamo però, ad ogni pianto, dare a chi perde quello che non gli spetta e che non gli è mai spettato. Così non si cambia una nazione già in ginocchio. La si finisce dissanguandola. Ambrogio. Ci avevano detto che avrebbero distribuito ai poveri le carte di credito finanziate con i soldi della Robin Tax. È rimasta la Robin Tax. Che sarebbero state tagliate le spese della politica. Hanno aumentato di milioni e milioni di euro le spese di Senato e Camera, tagliando ben altro. Che avrebbero dato soldi alle famiglie numerose e in difficoltà. Hanno proposto prestiti al tasso del 4%, guadagnando anche sulla miseria. Hanno detto che all'Italia non sarebbe costata nulla ai contribuenti. Hanno messo una tassa di 2 euro per ogni passeggero che transita in ogni aeroporto. Hanno inventato Mister Prezzi contro il caro vita. C'è rimasto il signor Mister Prezzi da pagare caro per dirci quel che tutti vediamo, senza che muova un dito per ridurre i prezzi che invece salgono impunemente. Mi spiace che purtroppo la stampa non faccia molti raffronti tra le cose annunciate e le cose realizzate, con i risultati raggiunti. La casta pensa sempre più a se stessa, anche ad autocandidarsi perennemente, tanto da essere incancrenita. È pensabile un Obama in Italia? Tra le ormai centinaia di migliaia di politici non emerge alcun giovane. Non se lo sono mai chiesto i vecchietti al potere, che ogni giorno si sbeffeggiano e che ci fanno le prediche. E i giovani partiti che avevano promesso pulizia, appena varcato il portone del potere, eccoli impantanati, abbindolati dalla sete di soldi e privilegi, per loro e i loro nipoti. Che delusione. Walter. Io e mia moglie viviamo a Berlino. Abbiamo un reddito di 83.000 euro lordi e per un asilo bilingue anglo-tedesco, che si svolge dalle 7.30 alle 18.30, paghiamo 470 euro al mese. In Italia sarebbe impensabile. Davide. Berlusconi è davvero una persona incredibile. Secondo me, La cosa più importante per lui è che si parli di lui. Se ne può parlare bene, se ne può parlare male. L'importante è che se ne parli. In questo momento, però, essendo l'esponente politico più importante nel nostro paese, dovrebbe agire in maniera più oculata. Sarà anche una persona con un gran senso degli humor, ma vorrei ricordargli che i cittadini italiani lo hanno eletto per svolgere un preciso lavoro e non per ascoltare le sue battute quotidiane, i suoi insulti a coloro che non la pensano come lui, eccetera. Da cittadino italiano, gradirei che Berlusconi mantenesse il suo senso degli humor, ma che lo sfoggiasse durante le cene con la sua famiglia, con i suoi figli, con i suoi amici, e non quando rappresenta l'Italia nel mondo. Giovanni, Roma. È vero, anzi verissimo, che con l'elezione di Obama il mondo, ma soprattutto l'Italia, sono davvero cambiati. Eh sì, perché se fino a ieri politici nostrani e ferventi manifestanti dipingevano l'America come tutto ciò che era male, catastrofe e distruzione, oggi invece, con l'avvento di Obama, tutto è cambiato. E così, chi fino a ieri odiava o magari bruciava quelle infami stelle e strisce, oggi al contrario ama appassionatamente e addirittura invidia tutta l'America e gli americani, tanto da sentirsi in diritto di nominarsi ambasciatori mediatici di scuse per la battuta del nostro premier. Mi domando allora, non saranno forse proprio loro a dover chiedere scusa per quanto detto e fatto finora nei confronti degli Stati Uniti, specie quando la politica estera di Obama sta già dimostrando di essere alquanto simile a quella del suo predecessore? Se c'è qualcuno di cui vergognarsi, sono tutti quegli ipocriti che salgono sul carro del vincitore senza sapere spesso come la pensi davvero il cocchiere. Riccardo, Roma. Salve, direttore. Le scrivo per dirle che vedere alla TV il neopresidente americano Barack Obama, con il quale condivido l'età, è stata un'emozione. Ho pensato se e quando potremo avere in Italia un presidente del Consiglio meno datato e capace di fare emergere la qualità delle persone giovani e capaci. Persone che, nel tempo, dovranno cercare di cambiare le nostre abitudini di retrogradi, di paurosi nei confronti del nuovo che sentiamo in gran parte arrivare da fuori. E chissà che forse riusciremo a liberarci di quell'egoismo che fuori dal nostro paese è considerato una sorta di copertura al fatto di non sapere e di non essere in grado di comportarsi in modo adeguato. Fabrizio, da Ferrara. Vorrei rinfrescare un po' la memoria ai nostri amici di sinistra in merito alla loro presa di posizione riguardante la battuta che il nostro presidente del Consiglio ha fatto qualche giorno fa al neopresidente degli Stati Uniti. Si ricordano i titoli di giornale che fecero quando fu nominato il Papa Benedetto XVI? Se non mi ricordo male, scrissero «È arrivato il pastore tedesco». Meditate, gente, meditate. Sergio. Vivo e lavoro a Milano, ma ho famiglia in Liguria, a La Spezia. Ogni weekend faccio il pendolare sulla linea Milano-La Spezia, linea interregionale, a basso costo, per intenderci. Domenica sera, come ogni domenica sera, sono partito dalla Spezia verso le 18. Verso le 20 ci hanno fatti scendere dal treno a Fornovo, per termine corsa. Il treno era diretto a Bergamo, con cambio a Fidenza, causa sciopero sindacale. Dopo 40 minuti, un autobus ci ha portato a Parma. Una volta a Parma, erano le 21.30, ci è stato detto che il treno successivo per Milano sarebbe passato verso le 6 di lunedì, 10 novembre. C'erano persone che piangevano. Abbiamo subito un'ingiustizia incredibile. Pensate che i taxisti ci chiedevano 300 euro per portarci a Milano e abbiamo dovuto contrattare i prezzi. Non ho mai visto così tanti taxi fuori dalla stazione di Parma alle 24. Hanno fatto un business incredibile. Io, piuttosto che dare soldi in nero ai taxisti, sarei andato a piedi. Un Intercity poi si è fermato e ci ha raccolto, facendo una fermata straordinaria verso le 23. Un controllore sul treno voleva poi farci pagare il supplemento Intercity. Scusate lo sfogo, ma sui treni ci vivo. E una simile ingiustizia, i pendolari della domenica sera non se la meritano. Nicola. Nel 1980 furono assunti a tempo indeterminato circa 20.000 ricercatori senza concorso. Noi precari vorremmo una valutazione sulle pubblicazioni e sulle ricerche di questi signori. La media di età dei ricercatori italiani è infatti di circa 50-55 anni. Le tre tornate di concorsi che si sarebbero dovute svolgere nel corso del 2008 e del 2009 erano pensate bene, in quanto si prevede che nei prossimi anni circa il 20% dei docenti vada in pensione. Vogliamo l'età pensionabile per i docenti universitari. Personalmente sono pronta al precariato, lo vivo da anni. Voglio essere valutata per il mio lavoro, ma voglio essere retribuita con dignità. Io tengo 3 corsi, con 180 studenti circa per 2 corsi di triennale e 40 circa per la specialistica con un contratto co-co-co di 2.700 euro lordi. Naturalmente svolgo altre attività lavorative per vivere. Perché noi dobbiamo pagare gli sprechi e i ladrocini che in questo paese si sono compiuti nei decenni trascorsi? Silvia. Qualcuno ha definito la lettura dei giornali e l'ascolto dei media come la preghiera laica dell'uomo moderno. Il suo nutrimento intellettuale, insomma. È certamente positivo e utile informarsi, ma venendo a mancare il riferimento alla parola per eccellenza, ho l'impressione che anche le nostre parole umane finiscano con l'impoverirsi e degradarsi, infrangendosi le une contro le altre, in una tremenda confusione, che però viene scambiata per libertà d'espressione. In questi giorni, dopo le parole in libertà di Berlusconi, seguite da una valanga di altre parole in libertà e molti moralismi, mi è venuto in mente il capitolo 3 della lettera di San Giacomo, in cui egli parla del dominio della lingua quale segno di saggezza. Poiché la lettura e l'ascolto di questa parola non sembra più di moda, ne riporto qualche passaggio a mo' di stimolo anche per me. Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, andando dove vuole chi le manovra. Così anche la lingua. È un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare? Lascio ai curiosi e agli assetati di verità il compito di proseguire nella lettura, ma credo che sia sufficiente questa citazione per farci capire quanto il mondo della politica, dei media e la società stessa, per essere diverse, avrebbero bisogno di questa parola. Claudio. Caro Claudio, grazie mille della citazione. Se posso aggiungerne un'altra, le improvvide parole di Berlusconi mi hanno fatto venire in mente l'Ecclesiaste e quella meditazione sul tempo. Per tutto c'è un momento e un tempo per ogni azione sotto il sole. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per togliere. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. E potremmo aggiungere, anche se l'Ecclesiaste non lo dice, un tempo per parlare e un tempo per tacere, un tempo per scherzare e un tempo per essere seri. Ma dovrebbe essere sempre il tempo per pensare. Grazie. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.